Est-Ovest, rubrica della testata giornalistica regionale, che raccoglie voci e notizie dall'Europa centrale, orientale e balcanica. A cura di Walter Schert. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Est-Ovest. Dagli studi della RAI di Trieste vi parlano Marinella Chirico e Walter Schert. L'esercito russo nelle ultime settimane ha conseguito sui fronti dell'Ucraina importanti successi. L'offensiva è accompagnata da un'intensa attività diplomatica il cui obiettivo è indebolire gli alleati che appoggiano l'Ucraina. Il Cremlino ha individuato l'anello debole di questo schieramento nella Moldavia, paese che fino al 1991 faceva parte dell'Unione Sovietica e che ora la presidente Maia Sandu vorrebbe portare nell'Unione Europea. Molti moldavi però simpatizzano per Putin e poi a ridosso del confine con l'Ucraina c'è la Transnistria, regione secessionista filorussa, dove il Cremlino schiera un contingente di almeno 3.000 soldati. Il Parlamento secessionista della Transnistria ha chiesto nei giorni scorsi aiuto alla Russia. Inoltre Putin ha ricevuto a Sochi la governatrice della regione autonoma della Gagauzia, Yevgenia Gutul. In Gagauzia, 140.000 abitanti, vive una consistente comunità turcofona, politicamente vicina alle istanze russe. Di questo complicato mosaico moldavo parliamo con Alessandro Zuliani, docente dell'Università di Udine. L'obiettivo ormai non più troppo segreto di Putin è quello di ricreare l'impero russo e l'Unione Sovietica, e naturalmente la Moldavia, quella che è conosciuta come Bessarabia, faceva parte dell'impero russo, era stata scippata al Principato di Moldavia nel 1812, da allora è sempre stata parte integrante dell'impero russo prima, poi dell'Unione Sovietica, con la piccola parentesi del periodo interbellico, quindi è chiaro che Putin ha questo obiettivo. La Moldavia è certamente una regione per lui molto molto importante, anche perché è il luogo più vicino alla penisola balcanica. La struttura etnica della Moldavia è per lo più abitata da romeni, che spesso si dichiarano moldavi, ma tra romeni e moldavi non c'è nessuna differenza. Anche questo è il risultato di due secoli di russificazione, di propaganda russa, però è fuori discussione il fatto che la stragrande maggioranza della popolazione moldava sia romena, con una larga minoranza di ucraini e di romeni. Naturalmente noi qui non consideriamo tutte le altre, ci sono ebrei, ci sono armeni, ci sono gagausi, insomma è un paese in cui convivono molte etnie. Esiste una categoria politica della nazione moldava in cui i moldavi si riconoscono? Ci sono diversi partiti che nel corso degli ultimi 33 anni si sono dichiarati più o meno favorevoli all'unione con la Romania, piuttosto che ad un orientamento filoeuropeo. Oggi quello che ci preoccupa di più sono i partiti filorussi, in primis il partito guidato da Ilyan Shor, che attualmente vive in Israele, protetto e finanziato dai russi. Il suo partito è stato dichiarato illegale, quindi non si potrà più candidare sotto questa sigla, e c'è poi il partito dell'Unione dei Socialisti e dei Comunisti, che è un altro partito importante perché ha molti consensi, che è notoriamente filorusso. C'è il problema della Transnistria, regione secessionista che riconosce la sovranità di Mosca. Eravamo tutti molto preoccupati perché ci aspettavamo da questa assemblea convocata in modalità plenaria e straordinaria dei deputati di questo Parlamento della Transnistria, ci aspettavamo una nuova richiesta di adesione alla Federazione Russa. Faccio notare che una richiesta era già arrivata nel 2006, invece questa richiesta inaspettatamente non è arrivata, si sono limitati a chiedere un generico aiuto. L'aiuto è dovuto, diciamo, a Tiraspol, che è la capitale della Transnistria. In questo momento c'è molto nervosismo dovuto al fatto che tutta una serie di tasse, di accise, di dazi imposti dalla Moldavia hanno di fatto creato un problema importante, perché la Transnistria è filorussa, però l'80% di ciò coproduce, lo commercializza in Unione Europea. Naturalmente questo è un problema, perché questi dazi di fatto cancellano la convenienza nell'acquistare questi prodotti, e resta il fatto che quello di Tiraspol è un regime criminale. Torniamo in Moldavia, dove si voterà sia per eleggere il nuovo presidente, sia un referendum per decidere se aderire o no all'Unione Europea. Sì, è un appuntamento elettorale importante per le presidenziali che si svolgeranno insieme a questo referendum convocato dall'attuale presidente Maia Sandu. L'appuntamento è per il prossimo autunno e naturalmente i servizi segreti di Chisinau e il Ministero degli Interni ha già lanciato un allarme. Il pericolo è quello che ci sia un'interferenza pesante della propaganda russa ai fini di far fallire questo referendum. La guerra a Gaza tra Hamas e Israele ha costretto l'Occidente a concentrarsi su più fronti. In molti ora temono che la Russia possa provocare un nuovo focolaio di crisi anche nell'area dei Balcani. In questa regione il politico più vicino alla Russia è il presidente serbo Aleksandar Vučić, che nei giorni scorsi è volato anche lui a Sochi, dove è stato ricevuto dal capo del Cremlino. Le relazioni tra la Russia e la Serbia, ha detto Vladimir Putin, citato dalla TASS, sono uniche, con radici storiche profonde. La Serbia, pur essendo un paese candidato all'adesione all'Unione Europea, non ha aderito alle sanzioni di Bruxelles contro Mosca. Alaris Geyser, politologo e analista del Centro di Ricerche Internazionali It's Time della Cattolica di Milano, chiediamo quali sono le possibilità di un conflitto indotto, provocato in qualche modo dalla Russia nei Balcani. Le possibilità in teoria sono forti, sono alte, nel senso che ormai non possiamo più parlare di due teatri separati. Vi è una balcanizzazione dell'Ucraina, i Balcani e l'Ucraina sono connessi sia per valore militare che per valore politico. Ormai possiamo dire che siamo tornati al gioco dell'Ottocento, del Grande Oriente. Che scoppi domani? È difficile dirlo. Il problema nei Balcani è il fatto che tutte le parti continuano effettivamente a provocarsi, e questa continua provocazione un giorno potrebbe portare effettivamente a qualcosa di più pericoloso. Queste autocrazie che di fatto si mantano di democrazia nei Balcani, che potere hanno? Beh, fortissimo, controllano ovviamente i media. Calcolate che ad esempio in una regione come il Kosovo non esistono neanche i media stampati, quindi è effettivamente un'autocrazia, ovvero sono tante autocrazie che ci pongono diversi problemi per il Stato di diritto. La Russia, che gioco sta portando avanti nei Balcani? L'obiettivo della Russia è esattamente quello di contrapporsi ai nostri obiettivi, cioè quello di destabilizzare il retroterra di quello che oggi chiamiamo il fianco est. Quando tutto l'Occidente è coordinato e focalizzato sul mantenere la stabilità dei nostri alleati del fianco est, quindi della parte, diciamo, verso l'Ucraina, è ovvio che la Russia ha l'interesse a destabilizzare il ventre molle di un'Europa che è rappresentata dai Balcani. La Polonia è schierata con decisione al fianco dell'Ucraina, e tra le personalità che con più decisione affermano questa posizione c'è anche Lech Wałęsa. Gianluca Veneziani è stato a Danzica, dove ha intervistato il leader storico di Solidarność. Quando nell'agosto del 1980 si mise a capo dello sciopero nei cantieri di Danzica, da cui sarebbe nato il movimento Solidarność, forse non avrebbe immaginato che quel moto di protesta avrebbe portato in pochi anni al crollo del regime comunista, non solo in Polonia, ma in tutto il blocco orientale dell'Europa. Oggi Lech Wałęsa, che ci accoglie nel suo studio all'interno del Museo di Solidarność a Danzica, rievoca quegli anni con la soddisfazione di aver combattuto la buona battaglia e di averla vinta. Zaraz po wojnie, lata 40-50, walczyliśmy z bronią w ręku. Negli anni 40 e 50 siamo stati sconfitti quando abbiamo lottato con le armi in mano contro i sovietici. Negli anni 60 e 70 siamo scesi in piazza e abbiamo fatto molti scioperi e siamo stati sconfitti di nuovo. ma gli errori ci hanno insegnato che solo con la solidarietà si può raggiungere la libertà. E così ci siamo organizzati e siamo riusciti a sconfiggere il comunismo negli anni Ottanta. Niente è gratis. Abbiamo perso alcune battaglie, la guerra però l'abbiamo vinta. Giovanni Paolo II ci incoraggiava e ci invitava a pregare, intanto noi continuavamo la lotta. Il pontefice non ha combattuto in modo diretto contro il comunismo, ma il suo insegnamento era alternativo al comunismo e perciò ci ha aiutato a vincere. Quanto a me, dopo la riconquista della libertà ho lasciato la guida di Solidarność proprio per evitare di creare una situazione di monopolio simile a quella dei sistemi comunisti. Cosa risponde invece a chi continua a tirare fuori la solita vecchia storia di lei che sarebbe stato addirittura una spia comunista? Il Signore abbia pietà della stupidità di chi mi accusa di queste cose. Io continuo su una strada diritta e non mi vendo a nessun prezzo. Molto spesso sembrava che io collaborassi con i comunisti, ma solo perché io lottavo contro il sistema, non contro le persone, e ho provato a convincere della bontà della mia causa anche i rappresentanti dei servizi segreti. Io provavo solo a curare dei malati, malati di un sistema sbagliato. Cosa ha in comune la Russia di Putin con la Russia sovietica e teme che la storia possa ripetersi ancora? Solidarność dała przykład jak zwyciężać mamy. Il movimento Solidarność ci ha dato esempio di come si possa arrivare alla vittoria. Noi siamo stati in una situazione perfino peggiore di quella dell'Ucraina, ma non abbiamo usato nemmeno una pistola per vincere. Oggi è vero, la Russia spara e bisogna spararle contro, ma è il minimo possibile. Sarebbe perciò necessario fare la lotta in modo pacifico, con la propaganda, rivolgersi ai russi, raccontare in TV, in radio, sui volantini, le storie tragiche dei soldati uccisi, dire ai cittadini: guarda, questo era un tuo vicino, ci andavi a bere la birra insieme e ora non c'è più. Allora, cari vicini russi, noi non vogliamo combattere contro di voi, ci state anche simpatici. Vogliamo che continuiate a vivere e che ci lasciate in pace, ma dovete cambiare voi stessi il vostro sistema politico. L'ex leader di Solidarność guarda con spirito critico anche all'Europa di oggi. Siamo sempre molto divisi. L'obiettivo è creare l'unità continentale e globale, ma come farlo? Molti sono del parere che sia impossibile perché queste divisioni sono troppo profonde. Io ci sto provando. Presidente, come le piacerebbe essere ricordato? Io vorrei essere dalla parte giusta nell'eternità. Ho alcuni amici lassù, uno è Giovanni Paolo II, e spero mi aiutino. Se andassi all'inferno sarebbe difficile per me, perché mi ritroverei in compagnia di Stalin, Lenin, e non mi accoglierebbero bene, perché io ho rovinato il loro sistema. Per questo continuo a lavorare sodo per non andare all'inferno. Supetar in Dalmazia le hanno dedicato un monumento, la Pina Nobilis, nota anche come Naccara, Pina Comune o Stura, fino a pochi anni fa era diffusissima in Adriatico e in Mediterraneo, ora a causa di un'epidemia rischia l'estinzione. Per salvare la specie, ambientalisti e biologi di Italia, Slovenia e Croazia hanno avviato azioni comuni. Per condividere le informazioni sulle ricerche, Sau Ciriaco della Riserva Marina di Miramare del WWF ha organizzato una riunione a Trieste. Ma che animale è la Pinna Nobilis? Si tratta di un mollusco bivalve, immaginiamolo come una grande cozza, solo che raggiunge delle dimensioni fino al 1,20 m circa e ha addirittura un'età che può raggiungere i 30 e i 40 anni, quindi nel suo lungo arco di vita può raggiungere dimensioni decisamente importanti, se le condizioni lo consentono, perché dal 2016 un'epidemia di scala mediterranea la sta decimando, mettendone a rischio la specie. Quindi stiamo lavorando per cercare di trovare soluzioni a questa grande epidemia. I biologi stanno ancora indagando le cause interconnesse tra di loro che hanno provocato la moria. Valentina Pitacco, ricercatrice del laboratorio di biologia marina di Pirano, in Slovenia. Il principale responsabile di questa moria è un parassita, un protozoo, che prende il nome di Aplosporidium pinne. Il nome deriva proprio dalla pinna, perché è stato trovato per la prima volta associato a queste pinne morte. Si tratta di un protozoo che attacca il sistema digerente, quindi l'animale non è più in grado di nutrirsi, si debilita e muore. Non possiamo sapere se era presente prima e per quale motivo è diventato così pericoloso per la pinna. In Croazia, alcune delle pochissime pinne sopravvissute all'epidemia sono state portate nell'acquario di Pola. L'obiettivo è favorire la riproduzione della specie. Silvia Buttignoni, biologa, dirige Natura Histrica, l'ente che nella parte croata dell'Istria gestisce le riserve naturali. Abbiamo appunto trasferito alcune pinne in acquario e abbiamo degli ottimi risultati. Queste pinne crescono. Di solito crescono sui 10 mm all'anno e in condizioni controllate. La reintroduzione di queste pinne in mare funziona? Sopravvivono? Questo è ancora da vedere, quindi siamo in fase di doverli riprodurre e poi dopo la riproduzione cercarli di ributtarli in mare. Sia in Italia sia in Croazia, alcuni siti dove ci sono pinne sopravvissute al parassita sono stati protetti con delle gabbie, nella speranza che i molluschi che hanno resistito alla malattia si possano riprodurre nel loro ambiente naturale. La sopravvissuta, questo è il titolo di un libro scritto da Irma Hibert, triestina d'adozione ma che da bambina è appunto sopravvissuta all'assedio di Sarajevo. Irma Hibert, perché ha deciso di raccontare la sua infanzia a Sarajevo durante la guerra? Era arrivato il momento di scriverlo, più o meno forse intorno ai 40 anni uno fa un po' il bilancio delle proprie cose, delle proprie esperienze, e poi in realtà è stato un momento abbastanza fortuito, perché in realtà io lo pubblico quando noi siamo tutti nel periodo del Covid e dunque a casa tutti chiusi, a me era sembrato di vivere già un déjà vu, solo che ovviamente con caratteristiche totalmente diverse, dove appunto a casa pensavo in realtà quanto fossi fortunata in quello che poi sono riuscita a fare guardandomi appunto indietro, e da lì un po' è nato insomma questo libro. La guerra presente oggi in Ucraina, a Gaza e in altre parti del mondo, come condiziona ancora oggi voi bosniaci che siete emigrati ma anche i bosniaci che sono rimasti in patria? Come condiziona tutte le persone che in realtà hanno vissuto l'esperienza della guerra, tant'è che quando è cominciato il conflitto in Ucraina, i primi giorni quando io guardavo i telegiornali mi sembrava anche qua di vivere un déjà vu, vedevo le persone dentro i pullman cari che scappavano con quelle poche cose che potevano portarsi dietro. Infatti mi sono chiesta spesso quante irme potenziali, no, avrebbero avuto poi più o meno, non dico lo stesso destino, ma poi la stessa difficoltà nel trovarsi in un nuovo mondo, no? Trovare un proprio posto nel mondo altrove, perché per me, al di là dell'esperienza della guerra che io racconto all'interno del libro, che sicuramente è stata dolorosa, c'è stata una seconda guerra che era quella che ho dovuto affrontare quando sono arrivata qua, e dunque per noi bosniaci sicuramente riviviamo in parte tutto quello che abbiamo vissuto anche noi, no? E la cosa più triste è che dalla nostra esperienza, come dell'esperienza anche degli altri che purtroppo hanno vissuto la guerra, dalla storia non si apprende niente, no? In qualche modo è la storia che si ripete tristemente, per quanti libri, per quante testimonianze si possono scrivere o si possono avere. Perché ha scelto di scrivere in italiano? Perché ormai sono più anni che ho passato qua in Italia che non nel mio paese, che non a casa, e dunque nel momento in cui mi sono seduta le parole sono uscite proprio in italiano, non avrei mai potuto scriverlo nella mia lingua madre. Questo è anche un po' sicuramente il dispiacere delle persone che cambiano la loro vita, soprattutto così da giovani, perché quando io arrivo qua avevo soltanto 15 anni, e dunque il fatto di aver studiato, ho fatto tutto in una lingua per me allora straniera, ormai è la mia seconda lingua madre. La cosa che quando andavo all'università spesso ci dicevano: capirete che quando avete fatto il click, no? Quando finalmente avete veramente imparato una lingua, e quando cominciate a dire parolacce o sognare in quella lingua. È vera questa cosa, perché uno magari insomma non ci pensa mai. Quando è successo questo click, che magari veramente la mattina i miei sogni me li ricordavo in italiano, oppure quando mi arrabbiavo le parole venivano in italiano, là ho capito che ho fatto il passaggio verso una nuova identità, verso un'altra me. Anche oggi migliaia di persone arrivano in Italia perché spinte o dalla fame o dalle guerre o dalla fame provocata dalla guerra. Come accogliere queste persone? Con la volontà di accoglierle, cioè finalmente capire che l'altro non è mai qualcosa di negativo. Nessuno va via perché sta bene. nessuno di noi mai andrebbe via dalla propria casa, dalla propria famiglia, dai propri affetti perché si trova bene in un determinato luogo. E dunque intanto questo potrebbe essere il primo punto, il primo passo. E come accoglierle? Accoglierle come vorremmo che fossimo accolti noi qualora ci dovesse capitare una cosa simile. È arrivato il momento di salutarci. La parte tecnica è stata curata da Mauro Ciccarelli, l'assistente di redazione Edoardo Veglia. Al microfono Marinella Chirico e Walter Scherk. Potete riascoltare la trasmissione su RaiPlay Sound oppure sul sito della TGR. A domenica prossima, stessa ora, sempre su Rai Radio 1.